Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il fatto che ora girino tantissimo i video sui social, piuttosto che anche a tema, no, sessuale? Video sì, foto in più. Ti è capitato di scambiarti foto? Mie no, che me l'hanno mandato sì. Le ragazze che te l'hanno mandato, nude proprio? Nude. Sono persone che a 13 anni poi mandano foto nude. Mandano già le foto nude. Sì, a 13 anni. Anche che cioè, fanno sesso a 13 anni, lo sanno. Lui aveva una cartella di 400 foto. Sul telefonino? Anche quelle volte i video di ragazzi che toccavano, non so, non lo so. Si toccavano, quindi diciamo di masturbazione, eccetera. E che la fanno e la mandano a qualcuno che conoscono? All'amico, magari poi un amico fa l'infame, quindi lo passa un altro e poi tutta la catena. Anche persone tipo... magari prendono queste foto e ricattano. Che tipo di ricatti, quindi, per esempio? Per caso, non lo so, tipo una masturbazione. Beh, anche amici che conosco l'hanno fatto. Che lo hanno fatto, di ricattare altre ragazze. Sì. Io non faccio parte della schiera degli scandalizzati. Questi sono fenomeni che appartengono alla contemporaneità. Vanno conosciuti, capiti, elaborati in qualche maniera. Questo desiderio di condivisione dei propri momenti epici va in qualche maniera trasformato in qualcosa di produttivo, qualcosa di utile, qualcosa che contribuisca a crescere gli strumenti per fortificare l'esperienza e la vita dei ragazzi. È luogo comune che i ragazzi facciano un uso smodato, patologico, perverso del loro smartphone, ma è la prima generazione che ha a disposizione una protesi del proprio immaginario capace di cogliere, congelare, immagazzinare, condividere immediatamente, quindi attribuire più valore a dei propri momenti. Momenti che vengono, che io definisco, fra virgolette, epici, epici perché escono dalla norma, ma sono azioni che in realtà nulla hanno di particolare, di singolare, di eroico. Avete sentito? I ragazzi si filmano nei momenti di sessualità, che è il momento nell'adolescenza considerato apicale rispetto alla possibilità di provare esperienze di vita. In altre generazioni sarebbe raccontato timidamente al telefono alle amichette o agli amichetti, in altre generazioni sarebbe rimasto seppellito nella memoria profonda, al massimo sarebbe stato il pasto delle orecchie di un confessore, che avrebbe fatto l'uso che poi credeva più opportuno. In questa generazione c'è uno strumento che ci permette di fare immediatamente la foto e di condividerla. Quello che è da capire è capire quanto ciò sia giusto, sbagliato, quali sono i limiti, quale sia l'effetto di ritorno. Di tutto questo avrei deciso di parlare nella giornata di ieri, poi è venuto fuori un episodio che mi fa allargare questo tipo di riflessione e come sempre pongo le mie riflessioni al mio pubblico, al nostro pubblico, al pubblico della radio. Ieri una madre ha pubblicato in un profilo Facebook della figlia morta la foto del cadavere della figlia. Una ragazza di Bari che viveva a Bologna in un appartamento con altri amici, era incinta di 4 mesi, la mattina non si è svegliata, è morta. È da accertare il perché, il per come e il per quando. La madre pubblica la foto del cadavere della figlia, una foto agghiacciante nel suo iperrealismo, stesa sul letto, con la maglietta anche un po' alzata, che si vede il ventre abbondante, quindi sintomo della sua gravidanza, anche se era al 4° mese, e aggredisce, attacca in maniera violenta, quasi fosse una maledizione biblica, gli amici della figlia. Dice: colpa vostra, avete portato a rave party, avete deviata, fuorviata, avete chiesto i soldi e non avete restituiti. Insomma, guardate il vostro cadavere e sentitevi responsabili di questo. Non entro in merito e non giudico il gesto, però mi rendo conto, e questo vorrei sottoporre come domanda all'ospite, a voi che ascoltate, che ormai la tendenza, la capacità di trasferire immediatamente in questa sorta di mondo interconnesso e condiviso le proprie emozioni più forti, che può essere la gioia di un atto sessuale tra ragazzi, e può essere il compiacersi di una propria foto venuta particolarmente bene, un paesaggio, un piatto pieno di cose che ci piace mangiare, qualcosa che ci piace aver visto, qualcosa che ci colpisce profondamente, la cosa che più crea strazio e dolore in un genitore, il cadavere del figlio morto, che nell'ordine naturale delle cose non dovrebbe essere così, dovrebbe essere esattamente il contrario, il figlio che compone il genitore morto. Quando accade questa cosa, la cosa più terribile, è veramente un momento epico. Beh, questa signora, che non è certo una bambina, non è nativa digitale, ha fatto esattamente quello che avrebbe fatto un ragazzino. 800240024. Qual è il vostro rapporto tra voi, il vostro telefono, la possibilità di trasferire lembi della vostra vita con le persone con cui condividete ogni giorno il social network? A tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Quella che vi stiamo per raccontare è la storia scioccante di una tredicenne convinta ad avere il suo primo rapporto sessuale con tre coetanei. Lei vive in provincia di Venezia. Un giorno, forse per cercare il consenso del gruppo, forse per farsi vedere più grande, accetta di appartarsi con alcuni amici. Per un momento così di prova, con tre amici su un argine di un fiume, con tre coetanei tredicenni, ha avuto il suo primo rapporto sessuale che tra l'altro è stato filmato con i smartphone da questi ragazzini. Da questo momento la vita della ragazzina si trasforma in un incubo, le immagini, la sua vita più intima, tutto diventa pubblico. È naturale che i tempi sono cambiati, tutte le ultime due o tre generazioni hanno comunque ricordi, testimonianze di momenti di promiscuità nei loro momenti giovanili. Nel mio tempo c'erano i cosiddetti clubbini ricavati nei garage, negli stanzini, bastava una lampadina colorata, un po' di musica, qualche coperta, divanetto sgraffignato in qualche magazzino di famiglia e improvvisamente diventava l'emulo di una discoteca, ma in realtà diventava lo scannatoio in cui si provavano i ragazzi facendo le loro prime esperienze. È cambiato perché tutto quello rimaneva rinchiuso, relegato nelle chiacchiere, nel circolo degli amici. Anche allora si diceva, anche allora c'erano le chiacchiere, anche allora si raccontava, anche allora c'erano le avventure che animavano serate e serate, ma non c'era mai la prova concreta, la prova reale, non c'era mai la diffusione capillare. Io penso che fondamentalmente non siano molto cambiati i costumi, saranno probabilmente diventati più disinibiti i ragazzi rispetto alle generazioni che hanno preceduto, ma anche su questo avrei qualche dubbio, ma il fatto che oggi le cose si vedono, le cose si condividono e quindi diventa un problema. Siccome il privato è diventato ormai una sorta di broadcast individuale, naturalmente vengono fuori i generi, bisogna studiare nuovi generi per creare comunque dei momenti di affezione collettivi. L'ultimo è il One Thing Selfie Challenge, farsi un selfie davanti allo specchio, nudi, completamente nudi, soprattutto le ragazzine, anzi le ragazzine prendendo spunto da un manga giapponese, tenendo il dito indice davanti all'obiettivo dello smartphone, che allo stesso tempo lo stesso dito copre sia le loro vergogne della parte alta sia quelle della parte bassa. È un gioco di specchi, di illusione, però lo stanno facendo tutti. Ma c'era altri tipi di genere di selfie, c'era il belfie, il selfie del lato B, si fotografavano il sedere, tanto erano fiere di far vedere al mondo quanto ce l'avevano ben fatto. Fotografarsi, se no, il bikini bridge, il ponticello che fanno ragazze particolarmente magre sulla soglia dell'anoressia, quando stanno stese, supine, naturalmente non avendo zero pancia, essendo ossute, gli fa un ponticello la parte bassa del bikini. Quindi chi ha il ponticello più alto vuol dire che è più magra e ha più vinto la gara della magrezza. Poi ci sono altri mille. Fare le belle statuine, anche Gianni Morandi, che è il post adolescente che si è fatto la foto da bella statuina, farsi un selfie in una posa statuare immobile in mezzo alla folla. Ma ce ne sono tanti altri, fino a tirarsi le secchiate d'acqua in testa per fini benefici. Ecco, tutta questa definizione di generi nella propria autocelebrazione, secondo me, sta tracimando dal mondo giovanile anche al mondo delle persone adulte. Questa perlomeno è la mia teoria. Vorrei sapere oggi quanto voi siete stati tentati, che non siete giovanissimi, non siete bambini, almeno quelli che mi ascoltano, di farvi foto che descrivano o suggellino alcuni vostri momenti epici. Anche foto innocenti, non necessariamente foto legate a momenti di sessualità. Anche un piatto di pasta asciutta condiviso con gli amici, particolarmente venuto bene, è comunque la condivisione qualcosa che per voi vale la pena di condividere. Maura Manca, buongiorno. Buongiorno a voi. Maura Manca è una psicoterapeuta, abbiamo avuto un studio qualche tempo fa, autrice di Generazione Hashtag, gli adolescenti disconnessi, Alpes Edizioni. Ha fatto un compendio molto interessante, molto ben dettagliato, di tutte le maniere attraverso cui si articola il rapporto fra un adolescente e il suo smartphone. Mentre i nostri ascoltatori chiameranno all'800240024 per rispondere alla mia domanda, sapere quanto le generazioni, diciamo, non più giovanissime, non più quelli che vengono definiti in maniera un po' sommare nativi digitali, ricorrono a questo sistema di autoaffermazione di se stessi attraverso la condivisione delle foto. Faccio una domanda subito a lei, dottoressa Maura Manca. Come definisce l'iniziativa della madre bolognese, che oggi è su tutti i giornali, ieri apparsa in rete, di fotografare e condividere il cadavere della figlia nel luogo in cui sa che gli amici della figlia comunque hanno la massima frequentazione? È uno sconfinamento di uso adolescenziale in generazione adulta? Ormai hanno capito anche gli adulti che lì possono andare a colpire, lì possono andare a toccare, quello è il luogo del rapporto. Ci sono tanti adulti che utilizzano i social network per una sorta di denuncia sociale. Tanti adulti che, come in questo caso, suppongo la madre di questa ragazza, ma mi vengono in mente anche da poco un papà che ha postato le foto della piccola bambina malata di leucemia in fin di vita, che vogliono cercare e sfruttare l'efficacia comunicativa dei social. Quindi in questo caso io direi che l'intenzione è quella di arrivare a loro ben consapevoli che quello sia il canale più efficace, perché tendenzialmente il giovane, non solo l'adolescente ma anche il giovane adulto, vive e ha spostato completamente appunto le proprie relazioni e le proprie attività e le proprie emozioni anche all'interno della comunicazione sociale e delle relazioni social, per cui viene spesso usato dai genitori, non sempre in maniera così macroscopica, ma tendenzialmente anche per comunicare con loro e inviargli dei messaggi perché si venga sfruttata l'efficacia. Da cioè, se uno vuole andarli a cercare, li va a cercare laddove sa di trovarli. È inutile mettere un messaggio nella bacheca della scuola che nessuno leggerebbe, o lasciare un bigliettino sul comodino che nessuno leggerebbe. Le stesse oggi iniziano a parlare ai ragazzi tramite i social network, anche i professori, quindi si sta un po' spostando e c'è un condizionamento da questo punto di vista, è tutto veicolato. Sentiamo qualche ascoltatore, già sta cominciando a chiamare, 800240024, questa volta vorrei stimolarvi non soltanto a esprimere giudizi nei confronti del mondo giovanile, ma capire quanto ne siete contaminati anche voi di questo uso ormai totale, invasivo, che ha trasposto quello che consideravamo l'antico vecchio mondo delle relazioni concrete in un mondo intermedio, come dice appunto la dottoressa Manca. Giovanni da Cesena, buongiorno. Sì, buongiorno. Io mi penso. No, aspetti, la sento malissimo, la sento. Rifacciamo la telefonata un attimo perché non si capisce nulla di quello che dice. Mario da Napoli. Buongiorno Gianluca, sono Mario da Napoli, 50 anni. Dunque, io sono un utente di smartphone da non più di un paio d'anni. Io non ci vedo assolutamente nulla di male. No, male lo dice, io non ho mai detto, io sto analizzando, non esprimo giudizi di tipo morale. Sto esprimendo la mia opinione, non ho detto che lei l'abbia detto, assolutamente. Non ci vedo assolutamente nulla di male nel condividere i momenti della propria vita con gli amici o con le persone che ci sono care, o anche con perfetti estranei, se è il caso. Quello che è assolutamente incredibile è l'uso che ne fanno i ragazzini, perché non si rendono conto di ciò che fanno. Io ho sorpreso mia figlia a farsi foto in reggiseno e mandarle ad una sua amica. Quanti anni ha sua figlia? Mia figlia, per informazione, ha 13 anni. 13 anni. Da quel momento lo smartphone è finito, non dico nella pattumiera, ma quasi, e mia figlia è sotto controllo. Quando avrà capito che certe cose non si fanno, le verrà restituita. Cioè sua figlia non si rende conto che anche mandarla all'amica del cuore significa darla al mondo intero. Sì, perfetto, esattamente. Io ho la passione dei funghi, vado a raccogliere i funghi, faccio le foto dei funghi, le mando a mio fratello, ma sono foto di funghi, sono foto di me col fungo in mano, finita lì, insomma. È una cosa normale, banale. Sì, a proposito dei fotografi di funghi, un ascoltatore pensa di essere spiritoso, mi scrive, ma visto che mi ha scritto, gli do la gloria che cerca. Tutte le mattine posto una mia foto nudo per evidenziare il mio morning glory, la sua gloria della mattina. Vabbè, se l'avesse ascoltato la collega in precedere avrei detto che ha problemi prostatici, sa, questa cosa così forte, evidente la mattina. Ivano da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Nel periodo di luglio sono stato operato al cuore, E finché stavamo in reparto di cardiochirurgia, avevo vicino diretto un signore di 75 anni che anche lui aveva subito l'intervento. No, messi male, perché dopo un intervento del genere si era messi male. Però di nascosto il soppiatto provava di telefonare all'amica: mi mandi le foto con le tette, con corpo nudo, così. Cioè, dai, il vecchietto operato, appena operato, con ancora il cuore aperto, chiedeva all'amica: mandami le foto delle tette. Sì, assurdo, cioè io stavo lì accanto. Ma quanti anni aveva questo signore? 75, io ne ho 60. Ah beh, siete giovani, siete della mia età, pensavo vecchi cadenti, capito? Siete coetanei miei, quindi siete una generazione ultra veterani, si chiamano così oggi, non è che siamo proprio da buttare. E quindi questo signore chiamava, ma lei ha chiesto chi è questa fortunata, dovrebbe mandarti le foto? No, ma fatalità, muovendomi nel letto mi sono girato, ho visto la foto della signora che aveva sullo schermo del telefonino. Sì, non era una bambina quindi. No, una signora di 70 anni, forse è così. Ah beh, un rapporto amoroso che passa attraverso lo smartphone, voleva riconfortarsi della visione dell'amica. Certo, con il rischio che però le tette della settantenne, con il pieno rispetto parlandone, potrebbero creargli qualche problema, fosse anche una ventenne, non era proprio il momento adatto. Cesare da Firenze, chiudiamo con lui. Sì, buongiorno. Sì. Volevo dire che Facebook e qualsiasi social è semplicemente uno strumento vuoto, come dire un cacciavite, un martello. E quindi la consapevolezza è quella di conoscere lo strumento per saperlo utilizzare. No, è inutile giudicare come social o come strumento diabolico o chissà cosa. Quindi la conoscenza di Facebook è conoscere lo strumento per saperlo usare meglio. Quindi la domanda che volevo fare a voi, sì, è: come invece saper gestire, quale deve essere il cammino per imparare a gestire la disinibizione, cioè l'annullamento delle inibizioni che avvengono quando siamo davanti al computer e non più davanti alle persone? Ho capito, adesso ci fermiamo un attimo a lasciare la linea. La domanda che fa, intanto si prepara la dottoressa Manca per rispondere, per aiutarmi a rispondere, dice: come si fa a resistere di fronte a questa sorta di sirena tentatrice che ci induce comportamenti disinibiti, che abbiamo l'illusione di essere soli e non ci rendiamo conto che in realtà è una solitudine soltanto apparente. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, stiamo analizzando quella che è la tendenza contemporanea di celebrare se stessi, ma non lo voglio dire in maniera censoria, di mostrare agli altri momenti di se stessi, la propria vita, che erano considerati fino a qualche anno fa momenti privati. Oggi cambia la soglia del privato, muta la soglia del privato. Abbiamo un oggetto in mano, che ormai è una protesi del nostro vivere quotidiano, che abbassa completamente, anzi riscrive completamente, quelli che sono i parametri della nostra vita privata. Maura Manca, ricordo, autrice di Generazione Hashtag, Gli adolescenti disconnessi, che è un libro che descrive tutti i comportamenti nello specifico, li elenca, li analizza, di quello che può essere fatto come fosse un format televisivo con uno smartphone in mano e la propria vita dall'altra parte. Alla domanda dell'ascoltatore possiamo fare un commento su quella domanda, Maura Manca. Cioè, l'ascoltatore: come facciamo a resistere? Lui ha la tentazione davanti a un computer, non si accontenta di guardare, deve interagire, e nell'interazione deve mettere qualcosa di se stesso. Beh, si parla di disinibizione, che fondamentalmente è data dal fatto che io mi fermo a ciò che vedo nello schermo, non guardo quello che c'è dietro. Quindi io, quando vedo una foto, quando vedo un'immagine, per me diventa in quel momento un oggetto da commentare, un oggetto con cui posso anche interagire, posso esprimere con tutto quello che in un certo senso ho dentro. Ma il problema non è nel virtuale, la realtà è che il problema appunto sta nella vita quotidiana e nel reale, perché la domanda che bisogna porsi è: che cosa si cerca? Perché nel momento in cui io mi affaccio sul social e cerco comunque un qualcosa che mi faccia evadere, o cerco quel qualcosa che sia altro da quello che vivo, è indubbio che automaticamente posso anche superare limiti da certi punti di vista, quelli anche del confine privato. È come entrare in un paese in cui ci sono regole diverse rispetto a quelle che vigono nel nostro habitat usuale. Secondo me noi entriamo in questo luogo perché lì ci sono le persone, lì c'è la reazione, lì ci stanno gli altri. Se ci stanno gli altri, dobbiamo andarci a cercare lì, come lei diceva poco prima, che i genitori vanno a cercare i ragazzi dove sa che i ragazzi si muovano. È un po' difficile oggi tirare giù la saracinesca e fingere che dall'altra parte non ci sia più nulla. Federica da Milano, buongiorno. Buongiorno, io sto chiamando come mamma, diciamo, che è un bambino di 2 anni, ancora è presto, però presto diventerà anche lui un adolescente. E francamente... Presto, passeranno una 15 anni. Sì, esatto, un po' di tempo. Sì, ma finirà, questo che stiamo descrivendo sarà già un mondo vecchio. Parleremo dei social network come oggi parliamo del mangiadischi, penso, una cosa del genere. Probabilmente sì, però mi rendo conto da mamma che adesso la cosa che posso fare è chiedere che le istituzioni... a livello scolastico formino i bambini in modo da capire le potenzialità e i rischi degli strumenti che utilizzano. Allora, siccome suo figlio ancora non è in grado di rispondere, posso farle qualche domanda? L'ha già fotografato lei suo figlio? Non, sì, l'ho fotografato. L'ha condivisa nei profili Facebook con le sue amiche? Mai. No. Lei non ha un profilo Facebook? Ho un profilo Facebook. E cosa ci mette nel suo profilo Facebook? Tendenzialmente Facebook lo uso per guardare i quotidiani, magari le notizie. Le notizie su Facebook è il posto meno adatto. Sì, lo so, poi leggo anche il giornale, ma quando non ho tempo guardo. Ma perché lo sente con un senso, come se avessi detto cosa fa lei nel suo intimo? Cioè lo sente come qualcosa, è uno spazio divertimento, guarderà anche cosa fanno i suoi amici, dirà ai suoi amici quello che fa lei, se no non ha senso se non condivide. E infatti io non ha proprio senso che ce l'abbia, perché non condivido molto su Facebook, francamente. Non sente lei questa necessità? È talmente spaventata quello che accadrà a suo figlio la grande che se ne tiene fuori. Va bene, è un essere umano che ancora vive al di qua di questa soglia qua, quindi pieno rispetto alla sua scelta. Luigia da Roma. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire un semplice concetto, cioè io per esempio ho un mio profilo Facebook che inizialmente usavo pochino, poi devo dire mi ha preso un po' di più, però mi prende più che altro per comunicare con le persone che io ho come amici, quindi sì, diciamo più che altro sono commenti. Quello che io volevo dire è che io sono personalmente una persona molto discreta, quindi che ne so, da bambina ero anche una persona timida, poi sono uscita fuori, parlo molto, sono comunicativa, però credo molto nella relazione diretta con le persone. Quindi io credo una cosa, per esempio io non condivido pochissime cose e di foto personalmente non ne posto quasi mai. Mi è capitato di postarlo solo in situazioni particolari, tipo l'anniversario di matrimonio, mi è piaciuto mettere 2 o 3 foto di quando mi sono sposata, oppure mettere le foto di mio figlio, che ragazzo, è un ragazzo autistico, io tra l'altro Nicoletti l'ho anche vista in queste attività dove ci siamo incrociati con i figli, e di mio figlio ho messo i suoi 17 anni fatti pochi giorni fa, perché mi è parso carino condividere una bella cosa e anche far vedere di più al mondo mio figlio. Però io sono una persona molto discreta, quindi io credo che alla fine Facebook, per esempio, i social network, non tirano fuori più di quello che noi siamo realmente. Sì, ma lei ha detto una cosa, che... lei ha elencato quelli che per lei sono i momenti epici della sua vita e giustamente li condivide. Oggi abbiamo questa possibilità di avere il piacere e la soddisfazione di vedere le reazioni del mondo rispetto a momenti che per noi sono significativi. È tutto legato alla propria esperienza individuale, per lei sono quelli i momenti importanti, l'anniversario di matrimonio, il 17 anni del figlio che ha diciamo un punto di vista diverso dagli altri, e quello condivide, è lo strumento di gioia che ha a disposizione. Però Mauro Manca, è esattamente lo stesso meccanismo in cui i ragazzi poi condividono le loro esperienze intime, i loro momenti forti, sono l'equivalente nella vita di un adolescente rispetto a quello che diceva la madre? Assolutamente sì, condivido pienamente quello che sta dicendo, perché ognuno condivide all'interno del proprio profilo privato ciò che lo rappresenta, ciò che per lui è realmente importante, quindi la vita. Se il ragazzo vive in un determinato modo, per cui è la sessualità, è le relazioni con gli amici, è questo fortissimo bisogno di riconoscimento e approvazione che loro hanno, lo ricercano in tutti i modi. E se poi oltretutto nella rete a un certo momento che cosa scatta? Scatta anche quello che è un effetto contagio, nel momento in cui io vedo che quello funziona e lo vedo a 360 gradi, perché sono bombardati comunque non solo loro stessi ma anche dai loro modelli di riferimento, da questo corpo costantemente utilizzato per appunto questa approvazione, è implicito che si facciano condizionare. Calcolando c'è il fenomeno delle star di YouTube. Le guardiamo noi con i nostri strumenti un po' vetero, diciamo, ma cosa dice questo per avere milioni di condivisioni di questo, nel suo profilo di YouTube? Ma evidentemente sono linguaggi che passano, sono cose che accomunano, creano dei legami di affezione. Ma chi noi non ha mai cercato nella vita l'approvazione degli altri, anche in epoche pre-digitali? Ci fermiamo un istante il traffico, poi continuo con la dottoressa Manca. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800 24 0024. Franca da Parma, buongiorno. Buongiorno, siete bravissimi, vi amo tutti quanti. Soprattutto Radio 24. L'amore deve essere corrisposto, se no è un amore disperato, però se lo ricordi. Dico, l'amore deve essere corrisposto, se no è un amore disperato. La sua dichiarazione d'amore ci apre il cuore, però non è detto che la corrispondiamo. Veramente, mi fate veramente tanta, tanta compagnia. Da quando vi ho scoperti vi ascolto ogni giorno. Allora, si scopre lei, ci racconti quello che deve dirci rispetto a questo allora, tema. Allora, io devo dire questo. Mia nipotina di 23 anni... Nipotina, è una donna fatta... È una nipotona, 23 anni, mica una bambina. 23 anni e io sono bisnonna. Detto questo, andiamo avanti. Allora, io quando è nata, è stata una gioia immensa, e ho pensato di fare un album con la mia nipote, con la pancina, poi un po' più grande, un po' più grande, un po' più grande, poi la nascita della bimba, che è in braccio al papà, e poi Elena, Sara... E poi man mano, mese dopo mese, eccetera, eccetera. E dove l'ha messo questo album? Dove l'ha messo poi questo album? Dove sta adesso? Dove è consultabile? Mia figlia, mia nipote abita qui a Parma. Ah, ma quindi un album cartaceo, vecchio stile? Sì. Ma che c'entra con la trasmissione di oggi? Sì, bello, divertente, ma stiamo parlando di... Lo vede solo lei, sua figlia, sua nipote? È qualcosa che appartiene a una generazione ottocentesca di concepire l'iconografia delle nostre glorie quotidiane. Grazie dell'affetto, ma non aggiunge molto. Elena, da Pistoia. Sì, buongiorno. Allora, io volevo raccontare un pochino quello che ci sta capitando. Io ho una pagina Facebook e ho anche un bambino che ha iniziato quest'anno la prima media, un bambino di 11 anni. In questi giorni un suo amichetto, che ha una pagina Facebook, mi ha chiesto l'amicizia. Per curiosità, prima di accettare, sono andata a vedere che cosa pubblica questo ragazzino. Ma io direi ancora bambino, in realtà probabilmente no. E ho trovato immagini e foto di falli, simboli vari. Tutto un bambino di 11 anni? 11 anni. Beh, lo dica ai genitori però, perché infatti, non è uno scherzo. Infatti, è un po' questo che dico. Chiamerò la mamma, ne parleremo, anche perché insomma abbiamo passato non solo le elementari ma anche l'asilo insieme, per cui ci conosciamo da tanti anni. Però dico, a parte il fatto che è tutto molto precoce, tutto molto veloce, però mi dico anche che qui la storia è un po' inversa, no? Cioè il ragazzino che in modo, io credo, anche inconsapevole, pubblica le cose. Sì, guardi, a 11 anni noi con il gessetto facciamo i disegnini che lei ha visto con orrore nel profilo Facebook del bambino amico di suo figlio, nel muro del gabinetto dei salesiani. Però è chiaro, a disposizione questa bacheca li mette lì, ma non è la stessa cosa. Ma ora manca, vediamo se riusciamo velocemente a dare una piccola indicazione. Cosa si fa in questi casi? Si chiamano i genitori rischiando che ci dicano fatevi i fatti vostri? Beh, anche perché 11 anni non dovrebbe stare su Facebook. Non dovrebbe averci proprio il profilo Facebook. Esatto, non dovrebbe averci un profilo Facebook, quindi nel momento in cui è autorizzato significa che anche quella modalità espressiva gli è stata autorizzata fin da piccolo. Questo, quello che veniva detto prima, è molto importante, cioè il fatto che tante volte l'autorizzazione è indiretta, perché se io mio figlio lo fotografo, lo filmo, lo posto, è normale che poi nel momento in cui lui arrivi a voler manifestare quello che prima si disegnava su un muro, lo fa attraverso un social network, perché è la sua normalità. Quindi in questo momento è che non capisce che noi al massimo lo vedeva il bidello, gli altri amichetti, e ci pigliavamo una nota. Non sono educati da questo punto di vista. Ma forse nemmeno i genitori. Nemmeno i genitori lo sanno. Questo regalano un tablet a un figlio pensando che regalano un videogioco che ci gioca in camera. Non hanno capito ancora che è una porta aperta verso il mondo. Forse manca proprio cultura. Che con la rete wifi loro si colleghino automaticamente a tutto. Io vedo bambini che a 6-7 anni stanno sui porno, perché tanto lo fanno attraverso i tablet dei genitori, che non credono che possano arrivare già a tanto. Quindi nella cache dei genitori già vedono comunque memorizzati i link, i genitori sanno un lecito uso che fanno di quello che gli pare, poi non dovrebbero dare lo stesso strumento in mano al bambino con cui poi la notte ridanno senso al loro matrimonio. Antonio da Roma. Ecco, buongiorno. E dunque, io ho deciso di fare una pagina in memoria di mio padre, un eroe sconosciuto della campagna di Russia. È divertente perché ogni anno, adesso che passa, Facebook festeggia il 100esimo anno di mio padre, 101esimo anno di età, e ho deciso di mettere le varie foto d'epoca, i suoi scritti, i suoi ricordi, e così io continuo a rivivere. Mio padre è interessante questo, Mauro Manca, l'uso che fa questo ascoltatore in realtà dei social network è un uso un po' più maturo, in realtà è una banca della memoria che addirittura ci ricorda ogni anno quello che facevamo l'anno prima, quello che facevamo in altri post, è diciamo paradossalmente un uso un po' più maturo rispetto il vorticoso sistemare il quotidiano. Lui mette veramente che lo fa parte della sua epica familiare, la guerra del padre, mi sembra che tradizionalmente sono le storie più si raccontano in famiglia. Sfruttare gli aspetti positivi di quello che sono appunto i social network, nel senso che io metto in vetrina ciò che è importante, dando dei contenuti anche di riflessione, dei spunti reali di condivisione di un qualcosa di più maturo. Questo è un assolutamente aspetto di creare una condivisione positiva. Le faccio una domanda finale, Mauro Manca, lei che ha studiato abbastanza approfonditamente, molto approfonditamente il problema. Quale sarà l'evoluzione? Ecco, queste ragazze a un certo punto finiranno di disegnare piselli sui muri dei bagni digitali e faranno qualcos'altro. Come li vede proiettati nel futuro? Cambierà questo atteggiamento? Porterà delle azioni più mature, magari sorprendenti, oppure rimarranno eterni bambini? Guardi, mi permetto una battuta. Oggi l'ultima social moda è disegnarsi i piselli nel bordo dell'occhio. Sì, è vero, l'avevo dimenticato. Sì, una sorta. Siamo arrivati anche a questo. Dopo di questo, sì, cambierà perché evolveranno le tecnologie e loro si adatteranno alle tecnologie. Sono d'accordo sul fatto che tra qualche anno questo sarà acqua passata. Quindi tendenzialmente noi dovremo attendere l'evoluzione in questo senso. Noi stiamo già parlando di qualcosa che è passato, diciamolo, non sappiamo ancora cosa sarà che sovrascriverà questa tendenza, ma stiamo codificando qualcosa che secondo me appartiene al passato. Non parliamo dell'avvenire, non parliamo del futuro, parliamo di un passato. Il futuro dell'essere umano digitalmente evoluto sarà su altri piani. Continueremo a fare tutte le sconcezze del mondo che abbiamo fatte dai tempi nei graffiti nelle caverne che erano le nostre case, ma evidentemente useremo meglio questa dimensione parallela alla quale noi abbiamo un libero accesso. È interessante capire però il momento di sfumata. Io vedo che le generazioni adulte ancora, quando descrivono questa attività nei social network, ne parlano come qualcosa di peccaminoso, come qualcosa di cui non vogliono parlare. Ha anche lei questa impressione? Sì, alcuni sì. Devo dire che sembra un mondo altro, un mondo dove si rinchiudono dentro con tutti gli aspetti più privati delle persone, quelli però no, da fondamentalmente da censurare, e non è assolutamente così. Questa è la normalità, questa è la nuova forma di condivisione che è diventata social e non sociale. prima uno c'entra dentro, prima uno la capisce, prima uno ne sperimenta anche ne a sue spese le insidie, senza realmente arrivare a situazioni drammatiche, e prima farà il passo ulteriore, che sarà quello della civilizzazione digitale. Grazie Mauro Manca, grazie agli ascoltatori, alla prossima.